Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, eccoci qui. Eccoci qua, 26 maggio 2016, caro Alessandro. San Filippo Neri, che è un grande santo della Controriforma, che si occupò di ragazzi, di oratori, quindi è molto popolare per questo, ed è il patrono dei giovani, non capisco perché, ma comunque dei portieri, anche degli insegnanti, il patrono della gioia, perché a differenza dei santi della Controriforma, tutti un po' pesanti, con l'aria pentite, vie contrite, lui invece aveva questa via, la fede gioiosa. Gioiosa. In fondo Don Giovanni Bosco, che ci è caro, però aveva ripreso questa, che era un'idea di San Filippo Neri. Tra gli altri santi dai nomi diffusissimi, Guinizzone, San Pardo, che non è il nostro piano vicino, però anche io quando l'ho letto ho detto ops, l'hanno già santificato. Poi San Quadrato, che non è Quadrado, no, il giocatore della Juve, è un po' il santo di alcuni politici che hanno la testa quadrata, alcuni. E San Prisco, e la giornata del sollievo. Pensa un po', ma che oggi cosa cacchio vuol dire la giornata del sollievo? Infatti oggi stamattina mi sono svegliato alle 5 e ho pensato: oh, ma c'è proprio... Esatto, cioè, veramente delle volte la tua, secondo me comprensibile e giusta, versione a ste giornate, oggi è proprio una cosa che non ha nessun senso. Però la verità, vero, è che ci sono quattro santi che voi milanisti pigate, avete iniziato a pregare. Questa notizia mi viene fresca da MF, dal quotidiano MF, perché ci sono i quattro santi pregati dai milanisti. Sono, vi dico i nomi, Robin Lee, Eric Su, Wai Kayan e He Xianjian. Perché sono i santi cinesi. Sono i quattro cavalieri cinesi del Milan. Finalmente sappiamo i nomi. E i milanisti, santi. Voi siete lì in ginocchio a pregare. Aspetta, dov'è il giornale? Questa è Vai la verità. Vai avanti tu, quali sono? Cosa si può dire di questi cinesi? Puntano al 70% della squadra. Questa è la notizia vera. E comunque, veglie nelle città milanesi e lombarde. Va bene. In attesa dei cinesi, dei salvatori cinesi. No, ma lo sai che io... Robin Lee, Eric Su, Wai Han e He Xianjian. Vabbè, adesso che mi hai detto i nomi non mi dicono tantissimo. Cioè, mi hai detto quattro nomi. Potrebbero essere dei cugini cinesi. A portare rispetto. Dici che è il codice dei conti coperti del cavaliere in Cina. No, non questo. Nel senso che potrebbe essere i miei, insomma, vicini di quartiere cinesi. Comunque, caro Alessandro, dobbiamo... Per certi versi, l'Italia, di cui adesso parliamo con notizie, cioè, però guarda che anche fuori, pensa un po' in America da una parte hanno Trump con il Telegraph che dice ecco qua come evadeva le tasse, e dall'altra la conclusione dell'inchiesta federale qui dice Hillary Clinton ha violato le leggi da segretaria di Stato sulle sue mail. Beh, candidati, ci lamentiamo in America, sempre dell'Italia, insomma, non è che dalle altre parti sono tutti santi e perfetti. Infatti. Allora, tra l'altro, noi oggi approfondiremo questa cosa che ieri ci aveva incuriosito e che oggi sui giornali è sviluppata, molti giornali attaccano e, ripeto, non appaia come una difesa di casta. Io, se c'è una cosa che trovo insopportabile, è difendere la categoria dei giornalisti in quanto categoria. Ah, no, certo. No. Però hanno passato un provvedimento per cui se un giornalista diffama un senatore o un deputato o un magistrato, la pena è aggravata. Fino a 9 anni, un terzo in più. Fino a 9 anni di carcere. Se invece si diffama un cittadino qualunque, un terzo in meno. Ecco, questa è la battaglia, così la vogliamo interpretare. Non tanto il giornalista deve essere tutelato, ma perché questa discriminazione? Ecco, insomma, perché i magistrati e i politici hanno diritto a una tutela maggiore di qualunque cittadino. Esatto, se decidono di mettere delle pene per un giornalista che diffama, che siano uguali per tutti. Se diffama chiunque. altrimenti è la riprova che si considerano superiori a tutte. Visto che l'hanno votata loro. Esatto. No? Avremo ospite il senatore Cucca, che è relatore in Commissione Giustizia di questo provvedimento, che immagino lo difenderà, ci spiegherà. L'hanno votato. Tra l'altro una convergenza parlamentare estesissima, quando si tratta di tutelarsi sono sempre tutti convergenti. Il disegno di legge, tra l'altro, spieghiamolo, nasce come contrasto alle intimidazioni degli amministratori locali. È una cosa giusta. E quanto tale si capiva, perché facciamo l'esempio concreto, un sindaco che prende un provvedimento, tipo il sindaco di Licata, no? Licata, per esempio, diventa oggetto di intimidazioni, violenze, qualcuno alza le mani, eccetera, è giusto tutelarlo e lì bisogna un regime di pene ad hoc, e questo lo capisco. Ma cosa c'entra la diffamazione? Da lì si è arrivato a questo. Comunque chiamateci all'800 24 0024. So, caro Oscar, che ti ha incuriosito quando in rassegna stampa ho letto l'ultima vicenda dell'ATAC. L'ATAC, perché a Roma. L'ATAC, virgola, la municipalizzata più cassata d'Italia da 10 anni. Io negli ultimi 5 anni 5 miliardi di trasferimenti pubblici bruciati, perché ho fatto deficit per 1,1 e per il resto bruciati. Finalmente i capi azienda hanno capito che è il caso di portare il dossier in procura, e quindi direttamente per gare bandite gestite dalla stessa azienda vanno in procura e dicono: ci può fare, qua non riusciamo a raddrizzarle, pensateci voi. E pensateci voi, perché sono le gare ovviamente del costo dei pneumatici, no? Hai letto prima la differenza di costo tra Roma e il resto. Spesa stimata credo 4 milioni, hanno speso il doppio, 8 milioni l'anno. Questo è... Ma che ci fanno? Cioè, se li mangiano, li bruciano, li rivendono? Che bella domanda da ingenuo. Ma che ci fanno? Che ci fanno? Non credo aeroplanini per i bambini di carta con le banconote, non credo. Va bene, non lo so, questo succede. Questo succede, e speriamo che sia un bel cambio. Chiunque governi la città, o veramente si mette un po' di pugno di ferro, oppure è possibile. Esatto. Allora, però, chiamateci allora su questa cosa della diffamazione, poi ne parleremo. 800 24 0024. Sai che, Oscar, invece ci ha scritto ieri una signora cittadina di Licata, una nostra ascoltatrice, che ha ascoltato tutte le puntate che abbiamo dedicato agli abusi Alicata, e questa signora, che si chiama Daniela, l'abbiamo chiamata. Signora Daniela, buongiorno. Buongiorno. Ci ha scritto perché dicendo: io sono una di quelle che ha una casa abusiva. La posso... Poi lei ha scritto una lunga mail, però possiamo presentarla così? Sì, assolutamente sì. E questa casa che dovremmo fare? Va abbattuta, lo sa? Sì, assolutamente sì, va abbattuta perché non ha i requisiti previsti dalla legge del 1976. La mia casa è stata costruita nel 76, qualche mese dopo l'approvazione della legge, è stata una delle prime case a essere costruita dopo la legge. Dal 76, però sì, sicuramente con assoluta consapevolezza dell'abuso eseguito sulla nostra proprietà privata, perché comunque è chiaro che i terreni sono privati, sono proprietà privata, naturalmente la proprietà privata va utilizzata entro i limiti di legge. E allora, scusi, lei dice assoluta consapevolezza di tutto, eccetera, però in una lunga lettera ci ha posto anche dei dubbi a dire, però sì, insomma... vi ho scritto perché comunque l'atteggiamento della popolazione che è coinvolto in questa storia, naturalmente l'atteggiamento di chi pensa di subire una prevaricazione o comunque di non aver chiaro il fine, lo scopo di questo accanimento, perché comunque... Ripristinare la legge. Signora. Esatto, ripristinare la legge. Allora, il problema... Ma questo è lo questo. Scopo, cioè ripristinare la legge. Questo è lo scopo ed è lo scopo di tutte le persone ragionevoli e che sono consapevoli di avere compiuto un abuso. Il problema però è che questa legge, che dal 1976 al 1991 non è mai stata applicata, applicata non solo dai privati naturalmente, ma non è stata applicata neanche dalle amministrazioni locali, i quali hanno prescritto la legge solo nel 91. Cara signora, gli amministratori locali, ma lì come in tutta l'Italia dove è diffusissima, ci prendevano i voti su quelli come suo padre che facevano le case abusive. Mi perdoni, non colpevolizzo. Allora sa com'è. Ma perché dico questo? Non per fare polemica, dico perché è un fenomeno nel quale appunto dall'alto il cattivo esempio delle regole interpretate dal basso legittima il mancato rispetto alla legge. Semmai la interrompiamo. Io non sto cercando nessun tipo di legittimazione sull'atto che abbiamo seguito. Il mio intervento sta in una visione moderna della soluzione. Il problema di quel territorio non sono solo le case abusive. Il problema di quel territorio sono le case abusive, ma è anche il totale degrado in cui perversa quel territorio, il totale abbandono da parte delle amministrazioni. L'abbattimento delle case è una cosa utile per la comunità, lo potrebbe essere, se fosse razionalizzato e inserito in un progetto di sviluppo economico e turistico della zona. Ora, noi non è che dobbiamo inventarci le cose. Ma sono due cose, sembra che uno anche lì non possa ripristinare la legalità e nel frattempo pensare a un rilancio del territorio. Però non è che se non c'è un rilancio del territorio nel frattempo una casa illegale si tollera. No, il problema è che ci sono 1500 case illegali, 1,5 milioni di case illegali in Sicilia, ma nessuno sta trovando una soluzione che vada a vantaggio dell'intera comunità. Qui il problema è che al centro vengono messi gli abusivi hanno sbagliato, vanno puniti, ma il problema è che la soluzione, a parte l'amministrazione, deve essere una soluzione per l'intera comunità. Ma certo, però signora Daniela, la sua posizione è giusto che vadano abbattute, è giusto che siano puniti, però inutile. Loro, il comune di Ricata ha preso 500.000 euro per abbattere 12 case su 1.500, 12 case abbattute a spot senza un criterio. La sua è una delle 12? La sua è una delle 12? No, non lo sappiamo perché non ne conosciamo i criteri, noi non siamo in grado di sapere nulla sui criteri di scelta, sulle liste delle case, non sappiamo niente. Queste case verranno abbattute a spot in un territorio di 20 km di costa. Cioè, secondo me questi soldi li stanno spendendo inutilmente. Non c'è equità. Il criterio che i soldi non vanno spesi per abbattere, questo è il punto. Esatto. In realtà i soldi possono essere spesi solo per costruire legittimamente in Italia. E questo o forse la sensazione, Oscar, proprio non esplicitata, ma la signora Daniela un po' ce la sta esplicitando, è: ma perché proprio a me? Tra tutti quelli perché proprio a me tra tutti quelli che hanno sbagliato? Ma è la solita cosa NIMBY, non è mica vale solo per le opere pubbliche, anche per la legalità. Siamo tutti per la legalità. Certo, applicandola agli altri, non a me però. Sì, poi siamo tutti per la legalità, ma ci sono 1,5 milioni di case abusive in Sicilia, devono venire a iniziare da quelle 12 a Licata. Comunque, io penso che noi stiamo facendo in questi giorni, su questi temi, tutte le volte che facevo così, un bel servizio pubblico. Perché? Perché Alessandro Milan e Oscar Giannino fanno i rigoristi, i calvinisti, che dicono spianate tutto. No. Perché aprendo i microfoni sia ai politici locali, sia ai parlamentari nazionali, sia a chi per anni è stato alla testa del movimento rigorista e poi difende, eccetera, sia ai cittadini e ai proprietari, diamo uno spaccato del perché questo fenomeno ha allignato per decenni e perché affrontarlo si rivela così complicato. Quindi, facendo servizio pubblico, dovete pagare il canone per ascoltare Radio 24. Non ve lo mettiamo né in bolletta né consentiamo, perché questa è veramente fantastica. I gestori elettrici adesso di dire che se fate il contratto con loro, come Edison, ve lo pagano loro, ve lo abbuonano. Questa è l'offerta. Sì, sì. Capite che oramai la RAI ha accettato, mettendo il canone in bolletta, di essere praticamente un buono sconto che vale zero. Perché questo è il valore assoluto dell'azienda. Vale 10 punti fragola. Vale 10 punti fragola. No, vale 10 punti fragola. Vale zero, cioè vale uno sconto se diventate clienti Edison. Quindi migrazione di massa. Ma davvero penso. No, ma perché la voce della signora, che come si sente? È una persona equilibrata, rigorosa, cioè non attacca con argomenti beceri, ma fa filtrare. Ah dai, volete spendere davvero per abbattere con quello che manca qua di più utile? Ecco, è di obiezione in obiezione, si capisce il perché. Tutti i proprietari dicono a parole, certo, sono illegittime le case, però, dai. Guarda, ci chiama anche Salvatore da Agrigento, credo, su questo tema. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Mila, buongiorno Giannino. Sì. Niente, io praticamente ho anche una casa abusiva anche a Mollarella, sì, allicata. Mollarella ci aiuta a capire cos'è una frazione dedicata. È una zona turistica marittima. Sì. È stata costruita dai miei nonni nel 78. Vabbè, con tutte le leggi, quelle che ci sono. Io volevo, diciamo, dare una soluzione allo Stato. A posto di abbatterci le case, no? Sì. Che hanno un costo, demolizione, smaltimento, sì, rifiuti e quant'altro, e in più ci devi dare la possibilità di darci una casa dove andare a alloggiare, non è che ci butti sotto un ponte. Vabbè, quella sarà una casa. Lei è residente lì, lei è residente lì. Lei è residente lì? Sì, sì, residente. Ci abito io. Ah, ci abito. Allora, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? La soluzione dice, vabbè, facci una specie, tra virgolette, di sanatoria. Ci dici, la casa vale così com'è 50.000 euro. Bene, noi paghiamo 50.000 euro, 70.000 euro. Lo Stato risparmia i soldi per la demolizione. Il condono. Se la mette, cioè, una specie di condono. È una specie. Salvatore, però, capisci? Io dico, non condono come era stato fatto. Perché ci pagate, non so, 50.000 euro. Un po' di più, pagate un po' però, di più. Però, Salvatore, cioè, capisce che il principio è, si nasce, alla base c'è un'illegalità, un gesto illegale, una costruzione abusiva, e lo Stato dovrebbe riconoscere questa illegalità e anche lucrarci un 50 e millino. E qual è il problema, no? Vedi Alessandro, cioè, che lo ha sempre fatto ripetutamente. Esatto. E tanto è vero che gli ascoltatori a questo punto dicono, ma proprio adesso volete cominciare a fare i rigoristi, quando sempre i soldi ce l'avete chiesti per i condoni e noi li abbiamo pagati. Lo sapevate allora che era tutto illegale, ci avete preso i voti, ci avete condonato e adesso un condono in più, e che è uscito Martin Lutero adesso? Una specie di condono. Ecco, perché ci paga, capite? Magari me la valuti un 50.000 e io 50.000 li pago. La legalità è un optional. No, Salvatore, vabbè, la sua proposta allo Stato l'ha fatta tramite Radio 24. Io mi pongo nelle mani di tutti coloro che invece si sono comprati la loro casetta in maniera regolare, pagando, e che ci stanno ascoltando, che immagino tireranno dei pugni sul volante in questo momento. Capito. A dire, ma io la mia casa la sto pagando col mutuo, tutta regolare, tutto. Ragazzi, che dobbiamo fare? Adesso io non voglio dire, ma nelle grandi città, cioè sto parlando in più di 100 città italiane, in qualunque compravendita la gente è terrorizzata oramai, perché se magari alla verifica delle condizioni di acquisto di un appartamento o di edilizia decenni fa non c'è stata però la ricognizione piena totale di tutti i documenti, che i lavori fatti non siano registrati, sono guai eterni. Esatto, e la gente per questo si danna la vita, e sto parlando di mezzo metro spostato, come ci scrivono via anche sms, esatto, via, cioè, i messaggi, cioè, tutti quelli che lo fanno nella legalità. Qui stiamo parlando invece in Italia di milioni di unità immobiliari, milioni, cioè, milioni, questa sì, è sì, la sì, quantità complessiva stimata, non so, in Italia. Non so se quello che ci ha detto Daniela prima, 1,5 milioni solo in Sicilia, sia un dato vero, ma insomma. Comunque, tra un attimo ripartiremo, anche continuate su questo tema, ma poi torneremo sulla diffamazione. Ripartiremo da Claudio da Savona, un ascoltatore che è lì da un po' di tempo, e avremo il senatore Cucca che ci spiegherà questo problema. Del resto, altra osservazione, scusami, io mi rimetto nei panni loro. Cosa succede sui giornali oggi? Lo Stato dice, bene, Poste, di cui aveva il 65% in tasca, avendola quotata, i soci privati, ne dà il 30% alla CDP e il resto lo vende. E dice, e questa è una privatizzazione. Chiunque legge dice no, perché resta il controllo allo Stato attraverso la CDP. E dice, ma perché allora lo Stato dice una cosa, ne fa un'altra, e poi a me in casa mia vuole invece che la parola e la legge coincidano? Vedi che tanti piccoli tutto esempi, ma lega. Tutto torna. Tutto torna, tra poco. Eccoci qua alle 8.41. Allora, il nostro Claudio da Savona, premiato anche per la pazienza. Grazie Claudio, sei ancora con noi? Sì, sì, sono qui, grazie a voi. Dica. Allora, io vengo brevemente all'argomento. Sul fatto che fare dei distinguo fra dire sputtanamento, diffamazione di, che poi alla fine è quello, diffamazione di politici e magistrati debba essere considerato più grave che nei confronti di normali cittadini, vabbè, è quello, è una bestialità, non c'è neanche il caso di discutere. Però Io noto che il reato di diffamazione viene comunemente visto come un reato minore, soprattutto, diciamo, soprattutto da quando è entrato in scena Grillo. Sì, vabbè, lui parla dei pregiudicati come se lui non lo fosse. La diffamazione, per conto mio, è un reato di una gravità spaventosa. Io in alcuni casi lo equipererei a un tentato omicidio. Io su Radio 24 ho sentito il servizio di cos'era, Mix Storia, di Giovanni Leone. È stato riabilitato 10 anni dopo la sua morte. Sì, però è stato travolto, cioè, in maniera indegna, lui, i suoi figli, sua moglie, per anni lo stigma. Appunto, cioè, mettiamo che venga fuori che Giannino è uno spacciatore, ha dei legami con la mafia, la sua vita pubblica, privata, viene completamente stravolta, viene mandato in galera, viene fuori, putanato, cioè, se qualcuno lo dice. E poi viene fuori, magari dopo 10 anni, che era stato diffamato. È un reato di una gravità. Della famiglia, forse è chiaro, occupa, che è un reato gravissimo. Su questo, Claudio, non si discute. No, ma che sia un reato gravissimo, e per questo lo Stato, perché c'è il circuito, no, mediatico, giudiziario. Però il problema è che per loro è più grave, cioè è come la fattoria degli animali, cioè c'è la distinzione orwelliana, per alcuni animali sono più animali degli altri. Non lo so, la giriamo questa considerazione, che così lo ben disponiamo. Stiamo parlando di un classico della letteratura. Quindi, al senatore Giuseppe Luigi Cucca del Partito Democratico. Buongiorno, senatore Cucca. Buongiorno a voi. Relatore in Commissione Giustizia del disegno di legge per il che nasce è il contrasto all'intimidazione degli amministratori locali. Questo è quindi giustissimo fine. E questo è un giustissimo fine. L'abbiamo dipinto così, no? Non so se ha già letto i giornali, ma anche oggi attaccano mettendola proprio così. Oscar Giannino dice: la fattoria degli animali, qualcuno è più animale uguale degli altri. È uguale degli altri. Insomma, perché se si diffama un deputato, un onorevole, un magistrato, la pena per un giornalista dovrebbe aumentare? Non è esattamente così. Lo spirito della norma è tutt'altro. Non è la diffamazione. La diffamazione non cambia, la diffamazione resta come era, e mi pare si sia sollevato un polverone. Poi intanto dico immediatamente che, per evitare qualsiasi equivoco o qualsiasi dubbio o perplessità anche interpretativa, io già sto predisponendo un emendamento che verrà presentato per l'Aula in maniera tale da chiarire in maniera definitiva quello che sto per dire. E cioè, la diffamazione semplice, diciamo, la diffamazione non cambia. Cambia in questo, questa norma prevede semplicemente che cambi la diffamazione quando abbia carattere ritorsivo, e cioè sia diretta a non far svolgere liberamente l'attività all'appartenente a un corpo politico, giudiziario o amministrativo. Quindi qualcosa cambia, diciamo, se è fatto con fine ritorsivo. Esattamente. Ma mi fa un esempio? Esattamente. L'esempio è quello, l'amministratore locale, un assessore, che non intende concedere, in quanto ritenendola illegittima, una concessione edilizia. Sì, e allora io scrivo che è uno spacciatore. Inizia una attività diffamatoria per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, un atto che lui ritenga illegittima indurlo a non compiere un atto legittimo. Ecco, questa è quindi in questo caso la norma è solo questo. Quindi, se abbiamo capito bene, in questo caso, cioè se io giornalista diffamo un amministratore per indurlo a fare qualcosa, quindi con un preciso scopo, in questo caso c'è la pena è aggravata. A non fare qualcosa. O a non fare qualcosa, sì, o a non fare qualcosa. Solo in questo caso. Devo anche specificare il motivo per il quale è stato introdotto. Io ho fatto il relatore, non partecipavo ai lavori della commissione, ma la commissione, e ricordo che la relazione è stata approvata all'unanimità da tutte le forze politiche, così come il disegno di legge è firmato e porta la firma di tutte le forze politiche. In effetti ha raccolto il testo di legge, ha raccolto le risultanze dei lavori della commissione, e nel corso delle numerose audizioni, prefetti, procure, amministratori, i reati, diciamo, che vengono commessi più spesso nei confronti degli amministratori per indurle, come dicevo, è la diffamazione. No, non alla diffamazione, quella serie di reati che sono previsti dall'articolo 3 della nuova norma. Originariamente era prevista anche l'ingiuria, che è stata tolta in commissione. Sì. In quanto è stata depenalizzata. Sì, però io ho una perplessità su questo, cioè perché non vale tra privati? Cioè anche tra privati io, un privato può fare o non compiere un atto, io posso diffamarlo per indurlo a compiere un atto o a non compiere un atto. Cioè non... Perché non scatta l'aggravante del 3%, esatto. Del un terzo della pena in più? Perché per indurlo a compiere un atto, se quel privato, stiamo parlando di appartenenti a parte il fatto che come la sta prospettando lei potrebbero esserci anche gli estremi dell'estorsione, tutto già nel codice, però la risposta alla domanda è un'altra, perché nei rapporti tra privati per indurre a compiere o a non compiere o a emettere atti da cui possono essere ravvisati interessi da parte di chi a quel punto decide di diffamare una persona e lo deve poi provare il diffamato, perché non si applica a quel punto l'aggravante un terzo della pena? Ci spiega perché? Però vorrei conoscere l'esempio pratico, io gliel'ho fatto, vorrei sapere, ecco, perché qui si parla di attività di un appartenente a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, che sono fattispecie che sono già previste. Adesso si sta semplicemente prevedendo che certe attività vengano punite in maniera più severa. Sì, ma se riguardano un rappresentante dello Stato, questo mi sembra di capire. È perché gli si impedisce il libero svolgimento della sua attività legittima. No, però perché lei sta predisponendo un emendamento? Non ho capito perché, se io voglio dire, inizio a diffamare un mio condomino perché non vota nell'assemblea condominiale, esatto, la ripartizione non secondo millesimi uguali per tutti. Io sono un giornalista, scrivo che spaccia. Allora, non ho capito perché... Sono questioni di diritto privato quelle, mi perdoni. Sono questioni di diritto privato, ma che riguardano... No, aspetti un secondo, caro mio signore parlamentare, perché il problema è che se il ministro Costa, leggo oggi sui giornali, dice, messaggero, la norma va riscritta... Evidentemente il dubbio non è anche perché solo lui, a me, il senatore Cucca ci ha detto che presenterà un emendamento, cioè lei presenterà un emendamento, vuol dire che qualcosa è uscita dalla commissione giustizia e va emendata, quindi non poiché c'è qualcosa la che diffamazione non ha a che vedere con la tutela della della dignità personale e quindi è questo l'elemento della diffamazione, non è l'attentato alle istituzioni, è qualche cosa che ha a che fare innanzitutto con la dignità delle persone che sono colpite. Per questo bisogna stare molto attenti a non istituire differenze ordinamentali asimmetriche a favore di chi fa politica o ha vinto un concorso in magistratura, perché siccome nella democrazia l'eguaglianza, stiamo parlando della dignità, non delle funzioni, per cui lei mi dice un conto sono quelle private e un conto quelle pubbliche, stiamo parlando della dignità personale. Allora secondo me c'è molto da discutere, se mi permette. No, però il senatore Cucca dice un emendamento chiarificatore. Cosa vuol dire un emendamento chiarificatore? Ci aiuta a capire. Chiarire che la diffamazione, perché si è sollevata sulla vicenda della diffamazione a mezzo stampa. La diffamazione non cambia, è semplicemente la risposta agli innumerevoli atti intimidatori, talvolta molto gravi, che sono stati compiuti nell'ultimo periodo nei confronti degli amministratori e che si sono poi concretizzati essenzialmente in quel novero di reati che sono indicati dalla norma. Questo è un'esigenza che è diffusamente sentita. Qui non c'è il problema di tutelare la casta come qualcuno ieri ha detto, c'è semplicemente l'esigenza di tutelare il libero svolgimento di quell'attività per cui sono chiamati, che sono chiamati a svolgere gli amministratori o comunque gli appartenenti a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Questo è, non c'è nessun intento. Non ci sarà nessun intento, però la giurisprudenza già fa vedere, la giurisprudenza per le sentenze depositate in caso di diffamazione, per esempio intentate da magistrati a propria tutela, fa già più che rilevantemente apprezzare la simmetria delle pene che vengono comminate in caso di, ripeto, diffamazione di giornalisti a magistrati rispetto che diffamazione di qualunque altro tipo. La vogliamo ulteriormente aggravare e tutelarli? Bene, però che non c'è, perché qualunque politico a livello locale userà questa norma se viene approvata, e io mi auguro che invece venga chiarita come dice il ministro e come dice lei stesso, perché bisognerà circostanziare in maniera molto approfondita per impedire che altrimenti ogni assessore dica di ogni pezzo di giornale: mi state diffamando, adesso rischiate, perché volete impedirmi qualche cosa, perché sarà la tiritera che tireranno fuori il sempre rischio, in un paese in cui le ruberie sono così diffuse, le violazioni di legge sono così diffuse, abbiamo appena finito di parlare di abusivismo, questa cosa va maneggiata con estrema cura, dico solo questo. Io ribadisco che la norma sarà chiarita meglio, però io francamente, ed è questo poi il lavoro che è stato svolto, perché qui sembra che ci sia stato un'intesa per mettere su questa norma a tutela di qualcuno. No, questo dobbiamo dirlo per una questione di correttezza. Cioè, se l'intento si applica a due categorie e a tutela di quelle due, scusi, non è che... No, a tutela, come dicevo, ogni qualvolta che si intende che il cui comportamento è diretto, è diretto, quindi ci vuole il dolo diretto a non far compiere la propria attività in maniera... Sì, ma giustamente diceva Oscar Giannino che qualunque assessore potrebbe dire: vedete, non mi volete fare approvare questa variante, certo, al piano regolatore, e per questo su quel giornale scrivete che io ho fatto questo. Cioè, è chiaro la che è labile il confine. Poiché l'assessore amministratore lo deriverà dalle sue impostazioni programmatiche, culturali e di pensiero, non è che configurano solo una violazione di legge. Capisce? Cioè, i confini di questa impropria inframmettenza sullo svolgimento delle funzioni sono tanto labili quanto quello di cui si occupa la politica. La politica si occupa di tutto, anche dell'aria che respiriamo nel nostro paese. Comunque, senatore Cucca, noi la ringraziamo perché il tempo è finito, dobbiamo chiudere. Ci teniamo come sempre i numeri di Antonio da Cagliari e Paolo da Ravenna, che vogliono intervenire sul tema abusivismo, anche, e li teniamo perché domani ci torneremo. Senatore Cucca, staremo anche sotto a questa vicenda di cui hanno parlato tutti i giornali, insomma. E naturalmente noi attenti, noi due, attenti a quel che si dice ancora di più, caro Alessandro, se passa una legge così, mamma mia. Va bene, va bene. Dai, a domani ragazzi, state con noi.